Eccoci ritornati amici, questa sera non riesco bene a parlare. Questa, che vuoi? Sì, niente, va bene, allora io parto subito perché almeno non mi sto a sentire. Se l'ha imbesata il vento dello stiffolo della finestra. Perché mi impesa il... C'è chi non fumare che fa male. Sconsigliamo ai nostri telescortatori di intraprendere la carriera di fumatore. Allora, io volevo fare un appello importante prima di partire con quello che pensi tu. Qui alla radio abbiamo un problema. Un problema serio. Ora Andrea mi aiuterà. Scusa, serio. Oltre al divano che non mi posso assettare. Tanto, fidati. Tanto quando? Vogliamo fare un appello ai nostri ascoltatori. Siccome qui c'è qualcuno che insomma non è tanto delicato. Ne avevamo tantissimo. Cioè non vi potete immaginare, avevamo rapinato l'MZ. Sì, voglio. È una cosa. Un ce n'è rimasta nulla. Non ce n'è rimasta nessuno. Tutto all'impiedi, sì, boh. Io devo registrare. Ma che io. Io devo parlare al microfono in piedi da oggi in poi perché qui c'è qualcuno che da stasera ha un jeep per sedersi, noi non abbiamo niente. Devo portare un jeep che si sente un po' niente. C'è qualcuno qui che non ha finezza nel sedersi e quindi noi abbiamo rotto tutte le sedie. Per chi ha un po' di cuore, noi facciamo un appello a Andrea. Se qualcuno ecco. Se qualcuno ci può portare due sedie perché siamo rimasti all'impiede tutti quanti. Vuoi Bradio Luzzi salvaguarda le sedie dell'MZ. Non solo salvaguardi le sedie dell'MZ, noi aiutiamo la raccolta differenziata. Adietà, portate la nuova che cercava a tavoli. Ecco. Ok, dopo questo appello io vorrei. Sussurrava al cippo. Che massimo. Andiamo avanti ora. Dopo l'uomo che sussurrava i cornetti mi suggeriscono. Allora io partirei col primo ospite di stasera che è la seconda puntata. Lui è Edoardo Crespelli con un suo amico. Prego. È tutta tua. C'è la sigla? Pelle gialla. Bene, cari morti di fame e ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Pera Gialla. Quest'oggi ci troviamo sperduti nel continente africano. Ma che cazzo conti? Vedi che siamo a Baccarezzo, sì. Appunto, in Africa. Per farvi vedere come questi pecorari campano in tempo di crisi. Siamo in tempo di crisi. La crisi della moneta europea, la crisi tutta a destra e a manca, ci hanno rotto le scatole con questa cosa. Adesso siamo venuti qui e appunto. Dove hai detto Casimo? Ma Baccarezzo, vabbè. C'è la seconda volta. Ok, siamo qui appunto con il signor Rico, che ringraziamo per la sua nonchalance e per essere proprio una persona ad hoc, un ospitante proprio di quelli. Sì, ma mo, escemi zi, coglione, che mi sta rovinando i brocco. Che gli è andato, se no ti faccio vedere l'ospedale, ma però che gliel'ho annunciato, te lo faccio vedere. Ah, quindi lei è piantato i bro. Signor Rico, lei come zappa la terra? Oi mire, ma che non ha mannato chi su due? Ma io mi pensavo che era Paolo Mar. E ad occhi rompe scappa. Dai tu spostate, che mi stavano tutti i roccoli, rapa, con te lei. Come vedete, questo è un uomo che ci mette tanta passione in quello che fa. Sono da rassito, capito? La passione dire che ti piglia scaffa e a paccare in tuo muso. Vabbè, ma signor Rico, a parte questi paccheri che lei ha detto, cosa ci fa assaggiare? Qualcosa di buono, di tipico? Magari qualcosa che produce lei? Aspetta, mo te le sciupio. Vieni da sa cascetta, te, prova chissà, te. E cosa sarebbe? Una fecuniana, te l'hai mangiata tutta una volta, così te ne faccio gusto. Proviamo. Ma che pena, Kiss! Ci hai fatto mangiare la figura con tutti gli spiriti! Se finisce di rompere gli scatoli!